cielo le fango, di letto mi danno e il piacere riparo. E il tempo scuro mi sembra chiaro per un nuovo gioia in cui mi rifrango. Una giovane donna mi ha conquistato, l'utopia passeggio con me. Così bella mi pare che l'allegrezza mi sembra di volare. A Cuba non mi sono fermato, in Congo, in Indocina sono andato. Se un fuoco in Bolivia si accendesse al modo stesso che in me prende, di nuovo bene potrei lottare, e inopportuno sarà disperare. Giovane bellezza, con una figura di rara fattezza, partito comunista boliviano non mi ama, mi rinnega, ma l'enorme di Cienfuegos mi attengo, per cui allorché io sono sventurato. Scate successi ottengo, e se mi riuscisse nell'intento disposto al modo stesso che mi sono proposto, al mondo intero farei parlare e il socialismo vedremo arrivare. E se mi riuscisse nell'intento disposto al modo stesso che mi sono proposto, padroni e tiranni se ne dovranno andare, e una nuova era vedremo arrivare. Se la morte ci sorprenderà, un'avventura in fumo e me stesso con altre mani.